Strana luce sul cuscino, entra un raggio di mattino che mi fa svegliare da un sorriso. In mezzo a tutto il mio casino, apro gli occhi e cerco il sole, e tu diventi già il primo pensiero che gira su di me, quasi come se desse il ritmo che non c'è, non c'è. Gira con te, sei come musica nello stomaco che spacca l'aria. Con la sua energia sei una melodia che non stanca mai, sei la preghiera che spendo con Dio. Strana luce nel mattino, fa staccare dal cuscino, mi fa aver voglia di ricominciare. E tutto scorre più veloce, metto in spalla la mia croce, che con te sembra molto più leggera, leggera. E gira insieme a me, quasi come se mi sapesse spingere più in là, dove non rimango a metà. Come musica nello stomaco che spacca l'aria. Come un rock and roll sei bella più di un gol, segnato in Serie A, sei tutto quello che chiedo a Dio. Sei come l'opera più bella che ci sia, sei come un angelo che canta una poesia che mi fa piangere e che mi fa ridere. Questa canzone la scrivo per te. Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Controtempo dal titolo In tutti i giorni eroi. Come si chiamava questa canzone? Questa canzone si chiamava Musica nello stomaco ed è, posso dirlo, una delle mie preferite anche da fare in live. È una canzone, diciamo così, in cui prevalgono molto anche i synth. È molto, una canzone d'amore in cui non si usa mai la parola amore, quindi diciamo così, è una veramente, secondo me, insomma, non lo so, mi emoziono ogni volta che la suono. Certo. Non tutto il disco non c'è la parola amore, perché ci piace più dedurlo della vita quotidiana, visto che spesso è una canzone che nella musica italiana è un po' abusata questa parola. Parecchio. Quali saranno gli obiettivi dei Controtempo per il futuro prossimo? Allora, noi abbiamo appena tradotto come Bud Spencer and Terence Hill in Like Bud Spencer and Terence Hill, cioè la versione inglese, che dovrà uscire all'estero, perché comunque loro sono conosciuti in tutto il mondo, abbiamo avuto diversi contatti, quindi... E poi dopo abbiamo il secondo singolo invece in Italia in uscita, che è uscito in questi giorni, col Eroi, col video che abbiamo detto. Certo. E poi dopo niente, abbiamo la prospettiva di andare avanti fino alla prossima estate con concerti vari, passando per un certo Festival dei Fiori, che insomma le cose si stanno vedendo, sai, fino a gennaio non si sa, però siamo proposti lì, ecco. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far sentire? Al quinto brano facciamo sentire una bella roccata, anche qua curata da noi la direzione artistica, qualcosa che non ti fanno più fare oggi discografici, no? Di mettere le chitarre distorte nei dischi. E invece questo qua è il nostro è bravo, e noi abbiamo questo brano che si chiama Vorrei far rock and roll. La notte segue il viaggio della sua cometa, la luna tiene il tempo sul ritmo che le dai. Porta al cuore